Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, ho fatto un po' di conti e sono arrivato alla conclusione che qualcosa non torna nel campionato di Serie A ed è presto detto, cioè siamo alla nona giornata e tutte le panchine sono ancora quelle di inizio campionato. Ora, già questo paese è seriamente in crisi di identità, se a destabilizzarne le poche certezze ci si mettono anche i presidenti, non licenziando più gli allenatori, secondo costume, alla prima o alla seconda sconfitta al massimo, allora siamo davvero rovinati. Ne parliamo appunto con un presidente, ma non di società, bensì dell'associazione allenatori, quindi bentornato a Renzo Olivieri. Buongiorno Renzo. Buongiorno a tutti. Senti un po', che sta succedendo con questa crisi di stabilità? Come la spieghiamo? Con il lavoro, al di là del... sembra che ci sia un pochino più serio nella gestione delle cose. Probabilmente c'è bisogno di tenere più conto di quelli che sono i svolti economici di certe scelte. Poi probabilmente si comincia a capire che l'allenatore ha bisogno di tempo anche per lavorare. Le due sconfitte, inizio di campionato, anche se un allenatore vuol dire che... Renzo, ti dobbiamo richiamare perché c'è un problema sul collegamento telefonico. Butta giù, come si dice in questi casi, e ci riproviamo. Io nel frattempo do conto del perché c'è questa, di come si articola questa inversione di tendenza. Prendiamo lo scorso anno. Lo scorso anno a quest'ora erano già saltate 5 panchine in Serie A, cioè entro l'ottava giornata, domenica si è giocata la nona, ne erano già saltate 5, cioè era partito Spalletti alla seconda alla Roma, Gregucci alla quarta all'Atalanta, Donadoni alla settima a Napoli e all'ottava erano saltati in due, Papadopoulo a Bologna e la coppia Ruotolo Russo a Livorno. Quindi insomma evidentemente da 5 a 0 un salto c'è, da qui questa curiosità di quest'anno. Poi è anche vero che non è detto che questa stabilità sia definitiva. Alcune situazioni di panchine sono abbastanza a rischio, insomma, par di capire che Malesani a Bologna non sia saldissimo in sella in questo momento, qualche perplessità c'è anche altrove. A proposito di Bologna, scrive Fiore, ma il Bologna ha già cambiato allenatore, ricordo male? Sì Fiore, però tecnicamente non è così, nel senso che il Bologna ha cominciato la stagione con Malesani già, l'esonero di Colomba è avvenuto prima del campionato, ma non è avvenuto ovviamente per ragioni tecniche o di risultati, anche perché i risultati non c'erano ancora, è avvenuto per divergenze con la società, probabilmente sulla campagna acquisti e per incompatibilità di carattere, quindi tecnicamente non c'è stato nemmeno questo esonero di Bologna. Poi non è da escludere, dicevo, che ne arrivi uno. Bisoli domenica scorsa, se non avesse vinto con il suo Cagliari, sarebbe stato a rischio. Ci sono voci su parecchie altre panchine, però è vero che al momento a fronte di 5 allenatori cambiati lo scorso anno a questo punto, e ripeto, Spalletti alla seconda, Gregucci alla quarta, Donadoni alla settima, Papadopoulo all'ottava e sempre all'ottava la coppia Ruotolo Russo a Livorno, quest'anno siamo imbattuti. Abbiamo ripristinato il collegamento con Renzo Olivieri, che ci stava per l'appunto dicendo che sì, da una parte probabilmente c'è una maturazione da parte dirigenziale, dall'altra c'è anche qualche problema economico sempre in più che suggerisce che uno stipendio per il tecnico è meglio di due. Sì, sono tutte e due le cose che secondo me spingono a questo andamento di cose. Io lo ritengo positivo, ma lo ritengo positivo per l'immagine dell'allenatore, perché certo, non poteva essere condizionato da due, tre risultati o un periodo negativo che ci sta comunque, perché il lavoro di un allenatore va visto nel tempo, c'è bisogno anche di consolidare certe cose che un allenatore fa. Quindi era un sistema surriscaldato, esageratamente surriscaldato, ora sembra surriscaldato per altre cose e non nei confronti degli allenatori, però fortunatamente ecco, per gli allenatori sembra un periodo abbastanza tranquillo. In compenso ci sono i presidenti, questi faccio una digressione, ci sono i presidenti in compenso che cacciano i giocatori. Lei è stato, lei, tu Renzo, sei stato sulla panchina del Doria, no? Parecchi sì. anni fa. Ci fossi adesso sulla panchina della Sampdoria, che atteggiamento adotteresti? Ma io credo che l'allenatore in una situazione di questo genere se ne debba stare fuori, può tentare una qualche mediazione, però voglio dire, le decisioni spetta a chi ha subito l'offesa. Poi è anche vero che per ogni reato non ci può essere l'ergastolo, credo che ci sia, che si debba graduare anche la pena. L'allenatore però in questa occasione credo che si sia adoperato anche per cercare di sanare una certa situazione, però al di là di questo poi non può andare. Non può evidentemente andare. Che segnale è che in testa alla classifica ci sia il decano degli allenatori in attività? È un segnale importante, a parte il decano, perché Reia è un uomo di senno, è un conoscitore di calcio, è un allenatore che sa gestire molto gli uomini. La Lazio credo che oggi vada spiegata, al di là del discorso tecnico, su un gruppo solido, cosa che negli anni passati non si era riusciti a fare. Sicuramente Reia avrà toccato delle corde importanti dei singoli giocatori. Sì, in compenso c'è, sempre parlando di gli esoneri poi sono dietro l'angolo, no? Noi oggi stiamo parlando il giorno, non dico nemmeno che giorno è, perché sennò sembra, stiamo parlando in uno dei primi due giorni di novembre, esattamente il secondo, e stiamo fotografando la situazione oggi, poi magari lunedì prossimo ci sentiamo per registrare che ne sono stati allontanati tre in un colpo solo, perché questo non si può dire. È curioso però che degli allenatori di scuola italiana, di nazionalità italiana, che attualmente sono su una panchina, forse quello che sta rischiando di più sia uno dei più celebri e stia rischiando all'estero. Sto parlando di Mancini. Sì, probabilmente sì, ma come probabilmente la nostra, che è stata una scuola importante e anche oggi direi è una scuola che è all'avanguardia, probabilmente negli ultimi tempi, ma secondo me per colpa di un campionato del mondo vinto che ci ha fatto sedere tutti, ci siamo seduti tutti sulla gloria, siamo campioni del mondo e ci siamo un po' fermati. Io credo che il nostro movimento debba ripartire, ma parlo di cultura, di ripartire, di rimettersi a studiare, perché probabilmente c'è qualche scuola che ci può essere passata avanti in questo momento. Renzo Olivieri, io una domanda che mi pongo spesso, ma se la pongono credo tutti gli appassionati di calcio, quindi io provo a girarla al presidente degli allenatori italiani, con l'esperienza che hai accumulato su panchine e non solo, è questa: quando una squadra accusa tanti infortuni contemporaneamente, e in questo momento ci sono almeno le tre grandi tradizionali che ne stanno accusando veramente tanti e non sono le sole, in genere si dice si dà la colpa alla preparazione, si dà la colpa all'allenatore che ha cambiato metodi, il preparatore, il medico, eccetera. Per la tua esperienza e però rapportata al calcio di oggi, che è sempre più tirato e sempre più estremizzato, io non ti dico di darci le percentuali di responsabilità, ma come le vedi suddivise in linea di massima? Allora, io vorrei parlare in termini statistici. La statistica ci dice che ad ogni cambio di allenatore, quando cambia mano, al di là dell'allenare meglio o peggio, essere più misurati o meno misurati, gli incidenti, gli infortuni in una squadra aumentano, come cambia mano. Questo è statistico, dici? È statistica, quindi su questo non ci si discute. Poi è anche vero che i calendari che impongono preparazione affrettate, squadre che vanno a fare amichevoli o in Cina o in Sud America, sì, dopo tre giorni di preparazione, squadre che vanno a incontrare altre grandi squadre senza quel principio di gradualità che i calendari passati consentivano, è chiaro, un fisico sottoposto a sforzi intensi quando ancora non è preparato prima o poi paga. Ecco, io credo che le cause siano un pochino queste. Il partire subito con impegni molto importanti, secondo me, è causa di tanti infortuni. Dite. E non a caso le più colpite sono le grandi, che sono proprio quelle che hanno il precampionato più lussuoso, chiamiamolo sì, così. Sì, il precampionato più lussuoso, che porta introiti dal punto di vista economico, però probabilmente paghi poi con infortuni e quindi sei costretto a una rosa più ampia, e quindi anche dal punto di vista economico è da vedere poi se c'è questo gran guadagno. Renzo Olivieri, io ti ringrazio molto per questo contributo di oggi. Ci sentiamo al primo esonero, ma la domanda finale è questa: ci sentiamo dopo il primo esonero? Perché statisticamente comunque sarà un'annata, come dire, tardiva, no? Come si, sì, come si dice per, ecco, per le vendemmie del vino. Ma sentendoci allora, insomma, vedremo di stabilire anche delle linee di tendenza rispetto a come è accaduto, perché ripeto, da 5 dello scorso anno a 0 a 0 adesso, e da presidente dell'associazione allenatori, vecchia domanda e forse gag più che domanda, ma insomma, conta di più questa stabilità e quindi questa serietà con cui la categoria viene accettata nel suo lavoro, oppure c'è un po' il rammarico che non si creano nuovi posti di lavoro per chi subentrerebbe? Ma io credo che in un momento come questo conti più la stabilità e il recupero anche di un'immagine che poi alla lunga poi si deteriora, perché esoneri continui, parlo si deteriora non a livello personale, ma a livello generale, ecco, sì. Una figura che poi, per cui secondo me è da valutare positivamente in questo momento. Molto bene, speriamo di sentirci allora più tardi possibile. Speriamo di sentirci più tardi possibile, sì. Un saluto a tutti. Grazie a Renzo Olivieri, sono in clamoroso ritardo oggi per dare gli aggiornamenti sul traffico. Il precedente record record si fa per dire ovviamente, ma insomma di ritardo di esoneri o di ritardo di panchine saltate risale perché la serie è ancora aperta attualmente, siamo alla nona. E tutti stanno ancora al loro posto, alla stagione 98-99, quando fu licenziato Gigi Simoni dalla panchina dell'Inter alla giornata numero 11, e tra l'altro fu un licenziamento che fece epoca per tre ragioni. La prima è che l'Inter aveva vinto due partite consecutive con Real in Coppa al mercoledì a San Siro 3-1 se non ricordo male, e 2-1 sulla Salernitana la domenica in campionato, pur giocando male tra i fischi. E questi sono i primi due elementi. Il terzo elemento è che Simoni andò a Coverciano il lunedì mattina, fu premiato dai suoi colleghi allenatori con il premio La Panchina d'Oro, che viene assegnata per l'appunto attraverso le votazioni degli allenatori stessi al più bravo tecnico della stagione precedente, e poi in macchina fu raggiunto, rientrando a Milano, fu raggiunto dalla telefonata di Mazzola, che gli comunicò per l'appunto questo esonero. Era il 30 novembre e quindi era un mese più tardi, per la semplice ragione che allora i campionati cominciavano dopo, stiamo parlando di 12 anni fa. Un po' di voci da ascoltare e tra l'altro interessanti. Cominciamo da quello che attiene a uno sciopero che sta di nuovo, se non precipitando, ma insomma sta di nuovo maturando, se non altro. E quindi sentiamo insieme le controparti. Prima il presidente della Lega Beretta e poi il vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Leo Grosso. Penso che davvero oggi sarebbe una iniziativa incomprensibile, sbagliata e soprattutto, diciamo, senza senso, proprio perché nel merito, come stavamo vedendo e come, diciamo, qualcuno ha potuto toccare con mano, le posizioni di merito sono molto molto meno lontane di come l'AIC voglia far credere. Quindi io penso che, diciamo, e mi auguro che prevalga il buon senso. Assolutamente, i calciatori sono compatti con il direttivo della IC. È chiaro, e i calciatori lo hanno detto chiaramente, e confesso anche che stanno perdendo la pazienza, non accetteranno imposizioni, non accetteranno se non un accordo equilibrato. A quel punto, certo, il rischio dello sciopero ci sarà, assolutamente. Io confido che il passaggio con la federazione ci faccia uscire da questo impasse. Questo sarà da vedere. L'appuntamento con il calcio internazionale oggi, come avrete capito, arriva un po' più tardi, arriva dopo l'intervallo delle 14.30 per i mercati, sicché se qualcuno di voi vuole prenotarsi per intervenire nel frattempo, è libero di farlo. Sentiamo come Roberto Mancini ha reagito alle critiche che sono piovute sulla sua gestione da parte della stampa inglese, diciamo pure di quella più, se non proprio scandalistica, di quella più tradizionalmente disinvolta. Mancini sulle critiche. Ma no, nessuna tentazione, perché lo scrivono molto spesso, quindi ormai ho fatto l'abitudine. Poi diciamo che molto spesso scrivono anche, la maggior parte delle volte, cose non vere sui siti, non so per quale motivo, ma per cercare di disturbarci. Questo accade 3 o 4 volte alla settimana, quindi diciamo che non è che oramai non ci si fa più neanche caso, perché comunque quando viene fuori una volta ogni tanto, ma adesso diciamo che a noi ogni settimana si inventano una storia e quindi la cosa va via liscia tranquillamente. C'è un altro passo di un'intervista rilasciata da Mancini ieri sera a Sky Sport 24 che è interessante, ed è l'opinione di Mancini su questo inizio di cavalcata laziale. Sì, ho visto la partita, ha giocato molto bene, devo dire, ma credo che insomma, magari la Lazio ha una buona squadra, e poi l'allenatore credo che abbia tale esperienza, è molto bravo, quindi sicuramente quest'anno faranno un bel campionato. Nel calcio non si sa mai, soprattutto dopo, negli anni dopo i mondiali. Io penso che la Lazio debba sempre giocare per fare il massimo, visto che in questo momento può permetterselo anche di prendersi qualche rischio. Il campionato è lungo, è chiaro che ci sono squadre molto più attrezzate, però non si sa mai, bisogna sempre cercare di fare il massimo. Prima di arrivare alla vigilia di Coppa, di cui ripeto parliamo nella seconda parte, ma possiamo prima magari anche ascoltare la vigilia di Benitez, visto che l'Inter è la prima squadra chiamata in causa stasera a Londra, mentre al Milan toccherà domani in casa con Real Madrid, e alla Roma sempre domani sera a Basilea. C'è una lunga dichiarazione di Cassano che prova a ricostruire la sua vicenda e prova dal suo punto di vista a ribadire le scuse al presidente Garrone. Sentiamo. C'è stato un diverbio molto acceso fra me e il presidente. Io naturalmente ho usato toni sbagliati e gli voglio chiedere scusa davanti a tutta Italia, però in questi giorni qua ho letto tante cose non vere, una su tutte dove io dicevo al presidente vecchio DM, cosa che non è affatto vero. Sì, mercoledì, dopo il giorno dopo c'è stato il chiarimento, abbiamo parlato al telefono col presidente e lui mi ha detto che il giorno dopo io dovevo chiedere scusa davanti a tutta la squadra, l'ho fatto sia privatamente mercoledì che giovedì davanti a tutta la squadra. Poi però se ne sono usciti con un qualcosa che mi volevano far firmare, io non volevo firmare. Era 3 anni che non si sentiva che facevo mezza cosa, appena succede un imprevisto mi fanno passare come un terrorista. Ma il presidente, da quando sono arrivato qua, è una persona importante, però ripeto, c'è stato un diverbio per questa serata dove dovevo ritirare una statua, non so di cosa si trattava. Io ho rinunciato a tanto, tanto, tanto in questo periodo qua, per me personalmente e anche per la Sampdoria, però lo faccio con il cuore in mano e non volevo andare, gli avevo già detto 2 mesi prima che non andavo, e per questo premio da ritirare io ho detto di no e si sono riscaldati gli animi. Si sono riscaldati per così poco, povero ragazzo. C'è sempre stata poca comprensione, no, nei confronti di Cassano, soprattutto da parte della Sampdoria. Poi arriva un giorno in cui anche chi aveva, giusto o sbagliato che fosse, aveva adottato un soggetto, arriva il giorno e il confine soprattutto varcato in cui un non più giovane signore dice: beh, adesso forse la misura è colma. E quando la misura è colma, poi magari si è colmata davvero. Avete sentito anche l'opinione di ieri prima, poi in questi giorni ne abbiamo sentite davvero, davvero tante. La vigilia di, dicevo prima di arrivare all'intervallo per i mercati, la vigilia di Benitez di questa partita di stasera sul campo del Tottenham, che potrebbe in caso di vittoria qualificare l'Inter con 2 turni di anticipo, quindi consentendole di tornare a dedicarsi A. alla gestione degli infortuni, che mi sembra la priorità assoluta in questo momento, B. al campionato, C. lentamente alla preparazione della finale intercontinentale. Sentiamo Benitez. tutti i giocatori che sono qua sono disponibili, abbiamo 21 e tutti possono giocare. Tutti vogliamo vincere così possiamo lavorare meglio, preparare le prossime partite. Dopo abbiamo le partite dello Scudetto, è molto importante per noi, e dopo il Mondiale. Possiamo lavorare in una maniera diversa, e sarà molto importante per noi, e i giocatori lo sanno, che è importante vincere e essere qualificati. Vi avevamo trasmesso prima quelle dichiarazioni di Grosso, vicepresidente dell'AIC. Adesso arriva un'agenzia in cui Grosso rincara la dose, dice: ci siamo visti 9 volte senza arrivare a una conclusione. La cosa più importante ormai non sono i singoli punti della trattativa, ma la ragionevolezza e la volontà. Noi cerchiamo ancora l'accordo, ma se non arriva, liberi tutti, perché noi abbiamo ragionevolezza e buona volontà, la Lega no. Intervallo, il secondo di oggi, per le borse. Ma al di là delle parole di Mancini, che abbiamo già ascoltato in precedenza, trasmesso, citando ovviamente la fonte che era Sky Sport 24 di ieri sera, nel fuori onda, nel pre e nel poi, in realtà che atteggiamento aveva Roberto Mancini? Lo chiedo all'autore intervista, cioè a Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Atteggiamento tranquillo, devo dire. Tra l'altro noi poi ieri abbiamo parlato con lui, ma alla fine dell'allenamento lui non è riuscito neanche a vedere la partita del West Bromwich Albion, che sarà la prossima avversaria, la squadra di Matteo, in campionato, perché loro poi devono preparare la partita di Europa League, e poi hanno questa gara e poi il derby contro lo United, quindi non l'ha vista la partita contro il West Bromwich, non si è perso granché, perché la squadra di Matteo è rimasta in 9 praticamente subito. Ma a parte questo, mi è sembrato molto sereno. Io avevo già visto una sua battuta prima dell'allenamento, ce l'hanno mandata i colleghi di Sky Sports di Londra, ed era un Mancini che proprio ha liquidato con rubbish tutto quello che hanno prodotto i giornali inglesi. Ora, lui ha detto questo e l'avete sentito. Ho la sensazione che da un lato abbia ragione, nel senso che molte cose probabilmente sono inventate. Poi tra l'altro io gli ho detto: devi confrontarti con una stampa che fino a 10 giorni fa diceva che avreste preso Rooney, e lui mi fa: guarda, è esattamente questo, cioè si inventano talmente tanto che avevano dato praticamente già Rooney al City e il giorno dopo ha rinnovato con lo United. Ci sta che lui abbia questo atteggiamento. Secondo me Mancini non avrà una vita lunghissima nel campionato inglese, proprio perché è uno che dice queste cose, nel senso che poi settimana scorsa o anche 2 settimane fa aveva detto, insomma, che i giocatori inglesi bevono un po' troppo, credo. Sì. Che gli dia molto fastidio l'atteggiamento che hanno durante gli allenamenti. Ha anche dato dei consigli su come caricare o scaricare la tensione, insomma, cioè di non farlo al pub. Cioè sono tutte cose sacrosante, forse, probabilmente giuste, anzi certamente giuste, che però dette in un determinato contesto, all'interno di una stagione, in uno spogliatoio che già l'anno scorso non l'aveva accolto benissimo, perché i giocatori erano molto affezionati a Mark Hughes, e con tutta probabilità, se non ci saranno i risultati sempre a tamponare, la sua vita nella Premier League potrebbe non essere lunghissima, insomma. Storie di allenatori, mi segnala Franco Piantarini, me ne segnala un paio. Una è che Jürgen Klopp, l'allenatore del Dortmund, Borussia Dortmund, che domenica ha vinto 2-0 sul campo del Mainz e l'ha scavalcato, in realtà da giocatore ha giocato 325 partite con la maglia proprio del Mainz, e da allenatore lo portò per la prima volta in Bundesliga nel 2004. Ci sono... è vero, ci sono anche all'estero queste storie, no? Strappacuore da un certo punto di vista. Sì, strappacuore. Klopp è molto bravo. Io me lo ricordo in Germania 2006 fare l'opinionista per la TV di Stato tedesca e farlo in maniera molto brillante. Lui è un personaggio molto, molto carico, molto, molto positivo da questo punto di vista. Ha portato il Mainz per la prima volta in Bundesliga. Il primo campionato è andato bene, il secondo un po' meno. È un allenatore che secondo me... non che il Borussia Dortmund non sia una grande, intendiamoci, però prima o poi penso che lo vedremo sulla panchina o del Bayern di Monaco o su... Insomma, dopo le dichiarazioni di Enes di ieri su Van Gaal, ho il sospetto che la panchina del Bayern di Monaco l'anno prossimo possa tornare disponibile, quindi chissà che o lui o Tucker, che è l'allenatore del Mainz, non possano essere tra i candidati. Ma c'è un'altra storia bella, secondo me, che riguarda Harry Redknapp. Perché lui è un personaggio straordinario, poi ha avuto una vita un po' così, nel senso che è stato pure in galera per una storia brutta legata al calciomercato. però lui è nato a Londra, tifoso dell'Arsenal, ci andava ad Highbury da ragazzino, il suo padre lo portava a vedere l'Arsenal, quindi subito tifoso dell'Arsenal, ha giocato nel West Ham, ha allenato il West Ham, allena il Tottenham ed è zio di un giocatore che gioca nel Chelsea, quindi di fatto ha il grande slam ed è papà di un giocatore che è stato in nazionale, cioè Jamie Redknapp è stato anche un centrocampista della nazionale. Gli manca per chiudere il grande slam proprio di allenare la nazionale, e con tutta probabilità, se non fosse uscita quella storia brutta quando allenava il Portsmouth, forse la Football Association avrebbe pensato a lui prima di Capello, ma quel che è certo è che potrebbe pensare a lui per il dopo Capello. Infatti è un'eventualità di cui si è già parlato, nella scorsa estate. Francia, allora in testa c'è il Brest, che è allenato da Dupont è parecchio più giovane di Rey, ha 9 anni in meno, ma anche in quel caso è l'allenatore più anziano della Serie A, esattamente come accade da noi in Italia con Rey, 65enne in testa alla Lazio. La curiosità della Francia potrebbe essere questa: si sono alternate finora in testa 4 squadre, che sono Toulouse, Saint-Étienne, Rennes e adesso il Brest. Sono 4 squadre che non c'entrano nulla con le 4 che si alternarono l'altro anno, che erano Marsiglia, Bordeaux, Lione e Montpellier, alla faccia del ricambio vero in quel caso. Sì, i maligni potrebbero dire che in periodi come questi, cioè di basso impero, può succedere di tutto, e non credo sia lontano dalla verità. Certo. Ecco, diciamo che non è un campionato che vive una stagione particolarmente entusiasmante dal punto di vista della produzione complessiva e della qualità, però è vero che i campionati così sono poi i campionati che diventano più divertenti. È chiaro che ne parliamo da non tifosi, perché non ci interessa chi vincerà il campionato francese, però siccome io ho iniziato a seguire il campionato francese, che il Lione vinceva il campionato già a marzo tante volte, e soprattutto per 7 anni consecutivi, certo, ha vinto cambiando la seconda arrivata, e di fatto era solo il Lione che anestetizzava, perché dietro comunque il rimescolamento era fortissimo, e poi squadre come il Paris Saint-Germain, che per anni hanno anche rischiato di retrocedere, adesso finalmente hanno trovato un minimo di stabilità e stanno lì, insomma stanno nelle zone, nei dintorni dell'alta classifica, e credo che insomma è un po' come quando si parla dei campionati di pallavolo, di pallacanestro, i quali mancano i grandi centri. Insomma, il campionato francese non può vivere tutta la vita senza una grande squadra a Parigi, e quindi mi auguro che prima o poi anche il Paris Saint-Germain diventi competitivo per vincere il titolo. Fabio, le due serate di Champions League, partendo dalla prima con le tue, cioè da quella di stasera, con le tue indicazioni di curiosità, come sempre. Intanto, cioè, a me intriga parecchio vedere cosa fare il Barcellona, perché il Copenaghen è partito benissimo in questa stagione e potrebbe fare anche il colpaccio ed andare agli ottavi, fermo restando che almeno 3 squadre questa sera possono già passare agli ottavi, e questo non depone tanto poi a favore per le ultime 2 giornate, nel senso che se, certo, ci fossero addirittura 4 promozioni, perché il Lione, Manchester United, Barcellona, Inter possono passare tutti, forse poi avremo poco da scaldarci. Resta il fatto che rimane per il momento una Champions League dove solo la posizione della Roma tra le grandi è una posizione di forte pericolo. Mi intriga naturalmente moltissimo vedere Mourinho domani a Milano. Ecco, ho trovato vagamente demagogica la sua frase: peccato non giocare contro l'Inter, perché avrei voluto salutare i tifosi. Beh, insomma, ce n'erano 50.000 la sera del 22, ormai era il 23, lo dico perché ero lì presente per lavoro, che lo stavano aspettando. Era anche gratis, perché il volo da Madrid lo pagava l'Inter, lo poteva pure fare lì senza... Vabbè, ha un impegno quella sera, se non si può pretendere. Lo so, aveva già prenotato il ristorante il Real Madrid. Quindi, però, il fatto stesso che tu già ti sia proiettato su domani significa che la serata di domani, comunque, non solo per Milan Real Madrid, mi sembra tutto sommato più ricca di interesse. Non c'è dubbio, guarda, aziendalmente devo dirti che per noi la serata forte è questa, perché c'è questa cosa della partita in 3D tra Tottenham e Inter, che certo, comunque è un qualcosa di nuovo, di particolare. E avendo visto una dozzina di partite in 3D ai mondiali, vi assicuro che è un qualcosa che rimane. Ma all'inizio magari vi darà un po' di mal di testa, però poi sarà difficile farne a meno. E poi no, effettivamente è vero, la giornata di mercoledì, ma ripeto, lo è soprattutto per le italiane, perché anche se è un sottoclub Basilea-Roma, però io credo che la Roma vincerà Basilea, perché sono convintissimo che la Roma resti una grande squadra, però è una squadra che si deve prendere i suoi rischi, e il rischio vero della Roma, secondo me, è che a Roma non si parla d'altro che del derby, e queste cose, in questo caso è molto meglio per la Roma giocare fuori, cioè andare via da Trigoria, andare via, perché altrimenti cominciano veramente a diventare spasmodiche le attese per il derby, mentre invece se la Roma perde a Basilea va nei guai grossi, e quindi è una partita che mi interessa parecchio. Molto bene, ne riparliamo giovedì con il consueto bilancio di questa due giorni europea. Con grande piacere, saluti a tutti. Grazie, chiudiamo il collegamento con Fabio Tavelli. Ci sono degli ascoltatori già collegati, adesso tocca un pochino a voi. Per esempio ad Antonio che ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, volevo innanzitutto ringraziarlo per l'opportunità e complimenti per la trasmissione. Volevo chiederle una domanda su Aurelius De Laurentiis I, re di Napoli, no? Nel senso che, molto ironica la cosa, dal dopo Serlaino ad oggi, quale miglior presidente che fa sognare un popolo di sognatori come noi napoletani, no? E lasciare che rimanga un sogno giocare la Champions o giocare ai campionati italiani ad alti livelli, perché fino a prova contraria rimane solo un sogno data la sua campagna acquisti. Secondo me anche con un allenatore come Mazzari, nulla contro Mazzari, però lo vedo uno che diciamo fino a un certo punto, poi per puntare a grandi livelli ci vogliono altre persone. Questo è il mio parere, volevo un parere, un suo parere su questo. Ma insomma, il Napoli sta facendo il passo non più lungo della gamba, mi sembra, in queste stagioni, e la trovo una politica saggia, realistica, perché è l'unica che va perseguita, se non si vogliono correre rischi da una parte e creare troppe illusioni dall'altra. Poi è vero che una tifoseria come quella napoletana, insomma, qualche suggestione in più l'amerebbe, qualche slancio in più. Io trovo che la politica, invece di innestare un giocatore a stagione, in pratica uno massimo due giocatori a stagione di caratura certa, anche se magari non fenomenali, sul telaio con Laudato, sia una buona politica. Forse andrebbe integrata con la ricerca di qualche giovane, cioè con qualche scommessina su giovani di talento che potessero poi costituire una sorpresa. Ecco, in questo mi pare che il Napoli di queste stagioni sia un pochino mancato. Non so se è una politica societaria oppure se questi tentativi sono stati fatti e poi non sono andati a buon fine, perché anche questa poi è un'eventualità. Ultimo intervallo, come va sulle strade? Su Cigarini non ci hanno creduto, scrive Simone La Ravenna a proposito dei giovani napoletani. Beh, è vero, non hanno provato a crederci e poi invece, però mi pare che anche all'estero, dove poi è andato Cigarini, non abbia granché attecchito, anche se era un ragazzo interessante e promettente, magari si rifarà. Ditemi, vi prego, come è finito Italia Repubblica Ceca di volley. Penso sia una notizia anche per gli ascoltatori. Luca da Bergamo. Luca, noi le notizie che riguardino qualsiasi argomento, sport incluso, le diamo nei notiziari. Ci sono i notiziari apposta, c'è un giornale radio ogni ora. Italia Repubblica Ceca è finito 3-2 per la Repubblica Ceca, mi risulta, di volley femminile. Però il sistema è quello, cioè le notizie hanno comunque la precedenza e fanno, questo da 11 anni soltanto, e fanno parte dei notiziari. Poi ci sono le rubriche di approfondimento, e in queste rubriche si scelgono argomenti più o meno popolari e più o meno azzeccati. Comunque dai, l'ho accontentata, anche se immagino che non volesse sentire, che volesse sentire un risultato diverso. Giampaolo Milano, buongiorno. Buongiorno Antonio Granzini, il buon senso per fatto persona, lei. Detto questo, volevo fare due rilievi. Il primo sul Milan, sul gioco, dicendo appunto che il gioco del Milan, secondo me quest'anno, è un gioco che deve sicuramente migliorare, deve sicuramente trovare una chiave. Forse non dico niente di originale, però lo voglio dire. La seconda questione invece vorrei fare quattro risate con lei, se mi è concesso. Lei leggerà la Gazzetta dello Sport, dottor Garanzini, spesso e volentieri per mestiere, giusto? Sì, spesso. Allora, lei ha detto spesso e volentieri, spesso. Spesso. Allora, quello che mi fa ridere perché la leggo anche ogni tanto al bar, piuttosto che la compro, è la pagina dedicata alla cronaca. Cioè, sembra che i lettori della Gazzetta, no? Mi da ridere a dirlo, no? Allora, a un certo punto, sport, ciclismo, calcio, alluvione. Sapete cos'è un'alluvione? Vi spieghiamo cos'è un'alluvione. Oppure, è stata ammazzata una, no? Perché è stata ammazzata? Cioè, mi sembra che la Gazzetta abbia un compito, no? Come di educazione, ad un popolo di sportivi su carta, che se, come dire, gli diamo le notizie anche che succedono nel mondo, perché se no tenete solo attaccati alle vostre notizie di calcio, non vorrei dell'altro. Ma Giampaolo, io la sua indignazione la prenderei con beneficio di inventario, perché non vorrei invece che avessero capito esattamente la formula dello sportivo, no? E quindi non si, a parte che questa svolta della Gazzetta non è inedita e risale qualche anno fa, se l'era scoperta oggi è rimasto indietro di qualche luna, ma in ogni caso quella svolta, che fu una svolta davvero, cioè quella di diciamo pure contaminare un giornale sportivo con le notizie di cronaca invece, ma di cronaca in generale, in assoluto, non so come dire, fu fatta dopo un, evidentemente dopo uno studio di mercato, ma di quelli seri. Bene, si capì probabilmente allora, si valutò che tanto valeva, se non proprio a culturare, provare comunque a, come dire, a inserire il fruitore di notizie solo sportive nel contesto, in un contesto un pochino più civile, più universale. Non mi sembra un'operazione negativa, la penso esattamente al contrario di come la pensa lei. Sergio da Genova, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, volevo, io sono tifoso del Genoa, sì. Volevo una sua opinione sulla papera che ha fatto con l'Inter il portiere Edoardo, no? Sì. Perché le spiego, la mia impressione è che adesso è poco tempo che è nel Genoa questo ragazzo qua, però la mia impressione che ho avuto è che abbia un grande istinto per le parate, ma che abbia pochi fondamentali. Volevo sapere una sua opinione. La ringrazio, buongiorno. Grazie a lei Sergio, non lo conosco abbastanza per darne un'opinione. Potrei chiederlo a Fabio Curicini la prossima volta che lo sento, che invece è uno che di portieri se ne intende, che la settimana scorsa ci ha fatto una sia pur sintetica lectio magistralis sulle caratteristiche dei portieri. L'errore dell'altra sera è gravissimo. È grave perché è un errore proprio, come dice lei, è un errore da mancanza di fondamentali. Però non posso pensare che il portiere della nazionale portoghese non conosca i fondamentali del portiere. Sono quelle cose abbastanza inspiegabili che ogni tanto accadono, e stavolta è accaduto questo qua, che indubbiamente l'ha fatta grossa, che l'abbia fatta grossa non si discute. C'è un brutto anniversario il giorno, ripeto, questo secondo giorno del mese numero 11 dell'anno, c'è un anniversario tutt'altro che gradevole da un punto di vista statistico nelle coppe, e ce lo ricorda, per la rubrica sembra ieri, ce lo ricorda Nicola Filippone. Sembra ieri. 2 novembre 1977. Pochi minuti di follia portano la Lazio fuori dalla Coppa UEFA. Dopo aver battuto all'Olimpico per 2-0 il Lens, al ritorno i biancocelesti avrebbero dovuto semplicemente gestire il vantaggio, ma la formazione francese, trascinata dal talento di Didier Six, riesce a pareggiare i conti con una doppietta dello stesso Six. Si va quindi ai supplementari, dove la Lazio crolla, subendo altri 4 gol, di cui 3 negli ultimi 5 minuti. L'insperato 6-0 finale spalanca quindi al Lens, alla seconda esperienza in assoluto nelle coppe europee, le porte degli ottavi di finale, dove sarà eliminato dai tedeschi orientali del Magdeburgo. Incredibile, la Lazio subì 4 gol supplementari nel giro di 10 minuti, dal minuto 109 al minuto 119, qua sott'occhio il tabellino, ed era una Lazio che in porta aveva Garella, che sarebbe poi diventato il portiere di uno scudetto veronese, di uno napoletano, aveva Manfredoni, aveva Giordano, aveva D'Amico. Aveva l'allenatore a Vinicio, cioè insomma era una signora squadra, soprattutto ha detto bene Nicola Filippone, era arrivata sul campo di Nas con un 2-0 da difendere. E invece ci fu questo tracollo che fece letteralmente epoca. Leonardo ha chiamato dalla provincia di Trapani, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno signor Garanzini. Dica. Io la chiamavo ritornando un attimo a sabato a Milan-Juve, facendo due considerazioni. Uno, che probabilmente è sbagliato esaltarsi troppo in questo momento per questa pur bella vittoria. E poi volevo ricordare un attimo quanti contestavano l'arrivo di Del Neri sulla panchina della Juve. Ma per la verità non tanti, insomma io non mi ricordo contestazioni particolari all'arrivo di Del Neri, può darsi che non ricordo nemmeno cortei trionfali o tappeti rossi particolari, ma contestazioni no, perché Insomma, De Neri è sempre stata come minimo una persona seria, preparata, che il suo lavoro lo conosce, quindi non ricordo enormi perplessità. Poi se lei mi dice che una serata di esaltazione collettiva, di esaltazione nelle difficoltà, che è un ottimo segno, ma è pur sempre esaltazione nelle difficoltà di fronte a una squadra che sbaglia palesemente partita, ma da tutti i punti di vista, se, come dicevo già ieri, il playmaker lo fa Gattuso, beh, insomma, è chiaro che non può essere un parametro assoluto. È un segnale interessante, però. Claudio Udine, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Vorrei spezzare una lancia a favore di Cassano, anche se non sono d'accordo su quello che ha fatto, chiaramente. Però vorrei evidenziare il fatto che lui non è andato alla trasmissione della De Filippi per 100.000 euro, rinunciando a 100.000 euro. Era già qualche settimana che non andava da nessuna parte. È l'ennesimo rifiuto alla richiesta del suo presidente. Il presidente gli ha detto: ma chi ti credi di essere? Io penso che a uno come Cassano, se tu gli dici chi ti credi di essere, minimo che ti possa capitare che ti prenda male parole, tutto lì. Certo, e di conseguenza il massimo che ti possa capitare, se sei recidivo come Cassano è recidivo da una esistenza intera, il meno ti può capitare che un giorno c'è la goccia che fa traboccare il vaso. Quindi lei, per carità, è lecito pensarla in maniera diversa, è lecito spezzare tutte le lance che si vogliono. Secondo me, io non credo che tornerà indietro invece questa volta Garrone, e se lo farà sarà un gesto di liberalità e di ulteriore saggezza sua. Qualcuno ha detto che è più difficile saper perdonare che... qui non si tratta di saper perdonare, secondo me si tratta che quando basta per chiunque e comunque si chiami. Grazie a Fabio Cantadoni in regia, a Franco Piantanida in redazione, ci sentiamo domani. A tempo di sport.